in primo piano. Le 7:17 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. I quotidiani di oggi sono ovviamente pieni di politica, di notizie che arrivano dal Vaticano e di commenti su entrambi questi temi. Ma cominciamo con una carrellata, diciamo, sulle prime pagine. Il Corriere della Sera in apertura, centropagina: Berlusconi rompe il silenzio, attacco ai magistrati, PD e centristi, viola le regole. Berlusconi rompe il silenzio elettorale imposto dalla legge alla vigilia del voto, attacca la magistratura, i PM sono peggio della mafia, dura reazione da parte del PD e dei centristi, sa soltanto violare le regole, urne aperte oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 15. Sempre in prima sul Corriere della Sera la nota del Vaticano contro i media, si cerca di condizionare il conclave, e poi il principio di realtà, questo è l'editoriale firmato da Sergio Romano, riguarda le elezioni, ritorno alla durezza dei problemi. Su Repubblica si vota, Berlusconi viola il silenzio, oggi e domani 50 milioni alle urne, il maltempo allarma il Viminale. Questo del maltempo in relazione alle elezioni, un altro dei temi lungamente discussi sulle pagine dei quotidiani. Poi al centro pagina, Vaticano, anatema di Bertone sui giornali, cercano di condizionare il conclave, ma il peccato è nella Chiesa, questo è il titolo dell'articolo di Vito Mancuso. E poi per l'inchiesta che Repubblica continua a dedicare al Vaticano e a tutto ciò che sta attorno anche alle dimissioni di Papa Ratzinger, scrive Concita De Gregorio, il partito ligure della Curia. Sulla Stampa la fotonotizia è dedicata appunto al maltempo, quindi grande neve in un paese della Romagna, un messo comunale consegna sotto la neve le schede elettorali. L'apertura è: l'Italia vota nella incertezza, ecco le proposte dei partiti, Berlusconi attacca nel giorno del silenzio, giudici peggio della mafia. Il Giorno, faro sulla Lombardia, seggi aperti, si vota fino alle 15 di domani, Silvio Berlusconi viola il silenzio, inchiesta a Monza, spuntano firme false per la lista di Maroni. E manovre all'ombra del conclave, l'altro titolo in evidenza su Il Giorno, che nelle pagine interne poi leggeremo si ricorda degli italiani all'estero e del voto all'estero, che sembra essere il solito pasticcio. Sole 24 ore, ricordo oggi con il domenicale, Italia alle urne, sfida su lavoro, tasse e crescita, giudici come la mafia e polemica su Berlusconi, PDL contesta Monti sui Marò, spot elettorale. E quindi il Sole mette in prima anche i Marò, che non tutti invece riportano sulla prima pagina, ma i Marò che sono tornati appunto per votare, staranno in Italia un mese, qualcuno ha ironizzato, non parteciperanno forse anche al conclave in un mese. Ma questa appunto era ironia. Sul Sole 24 ore, l'umiltà di ascoltare, la capacità di fare, a firma del direttore Roberto Napoletano, il voto e l'economia reale. Il Messaggero, Berlusconi viola il silenzio, il Cavaliere attacca, magistratura peggio della mafia siciliana, l'ho detta grossa, coro di proteste, oggi e domani politica regionale, effetto maltempo, inchiesta sulle firme della lista Maroni. Centropagina del Messaggero, Bertone si vuole condizionare il conclave, in crescita le quotazioni dei cardinali USA. La Roma allo sceicco, c'è l'indagine dei PM, dubbi sul preliminare con Al-Shtewi, dopo la Consob si muove la procura, notizia di interesse nazionale ma in grande evidenza ovviamente sul quotidiano della capitale. Libero, ultima porcata sul voto. Alla faccia del silenzio elettorale, a 24 ore dall'apertura delle urne, esce la notizia di un'inchiesta su presunte firme false a sostegno di Maroni. Berlusconi, magistratura peggio della mafia, quindi inverte un po' l'ordine delle cose, Libero. Ma il Cavaliere resta ancora il male minore, è il titolo dell'editoriale di Belpietro. Centropagina, Re Giorgio dalla Merkel prima di fare il governo. E poi vergogna Monti, spot coi Marò che ha lasciato marcire in India. Questo è il titolo di un articolo di Maria Giovanna Maglie. Quindi prima pagina quasi interamente dedicata alle elezioni. Il Giornale, la sfida delle urne, Forza Italia. Oggi e domani torniamo a decidere noi chi ci governerà. Votare centrodestra è l'unica possibilità per non finire nelle mani della sinistra di Bersani, della follia di Grillo o nella trappola di Monti e Merkel. Berlusconi va all'attacco, la magistratura è peggio della mafia. così in piena campagna elettorale, anzi chiusura elettorale, il giornale. Poi al centro pagina ecco come si schierano i milionari della sinistra e seguono foto e indirizzi di voto, non so, su Dario Fo, Adriano Celentano, Sabrina Ferilli, Milly Moratti, Isabella Ferrari, chi più ne ha più ne metta, e chi vuole togliersi lo sfizio è la prima pagina del giornale. Sul Fatto Quotidiano, decidono gli indecisi, questa è l'apertura. L'incognita maltempo sul voto di 47 milioni di elettori che oggi e domani scelgono il nuovo Parlamento e i governatori di Lombardia, Lazio e Molise. Dai 5 milioni di incerti dipende la vittoria del PD anche al Senato e il destino di Monti e Ingroia. Centropagina, i fulmini di Bertone, così La Stampa sta avvelenando il conclave, il segretario di Stato accusa gli schieramenti dei cardinali che decreteranno il nuovo Papa, San Pietro blindata per l'ultimo Angelus, pedofilia, Maone su Twitter, arrivo a Roma. Un po' più a sinistra è invece il titolo di apertura del Manifesto, dopo l'annus horribilis del montismo. Siamo finalmente alla prova del voto, il paese affronta le elezioni, sfinito da una deriva economica, politica, istituzionale e morale. Nella campagna elettorale il centro-sinistra non ha saputo offrire una proposta convincente alternativa alla ricerca dell'austerità. La coalizione di Bersani e Vendola, ma anche la rivoluzione civile di Ingroia, sono sfidate in campo aperto dalla radicalità populista delle piazze grilline. Sull'Unità, cambia l'Italia, oggi e domani 47 milioni di italiani alle urne, poi l'intervista a Bersani, siamo l'unica alternativa alle macerie. La Padania vota Lega, fai vincere il Nord, l'appello di Cota e Zaia con Maroni, obiettivo macro regione. E questa è praticamente tutta la prima pagina della Padania, che poi dopo riporta un facsimile della scheda elettorale e spiega appunto vota così. Il secolo XIX, voto l'ultima raffica di Silvio, Berlusconi rompe il silenzio, attacca i magistrati, peggio della mafia, e poi una grande fotonotizia, Genoa imbattibile ma l'arbitro nega il rigore del KO. C'è una bellissima storia sul secolo XIX della nave fantasma paura nell'oceano che tenteremo di leggere, inizia sulla prima pagina, poi prosegue nelle pagine interne molto dettagliatamente, una curiosità ma anche così un sintomo dei tempi. Pregherò per l'Italia, la segreteria di Stato, questa è l'apertura di Avvenire, c'è chi vuole condizionare il conclave. Terminati gli esercizi spirituali, il Papa ha ringraziato la cura e ha incontrato Napolitano. Oggi il grande abbraccio dei fedeli all'Angelus e poi un allegato con Avvenire sugli 8 anni del papato di Ratzinger, si intitola Grazie Benedetto, il nostro omaggio. E numerose pagine di commenti e di analisi appunto di questi 8 anni. E poi la Gazzetta dello Sport, oggi la ricordiamo, un derby da ragazzi, Fari su Balo, ma non c'è solo lui, è la chance anche per Kovacic e Jesus e il Sharawi e Niang, insomma così via, sul derby di questa sera tra Inter e Milan. Riprendiamo dal Papa rapidamente, giusto per capire le tappe di quello che sarà la giornata di oggi e del prossimo e dei prossimi giorni, perché ormai siamo agli sgoccioli. Ore 12 di oggi, l'ultimo Angelus, Benedetto XVI reciterà l'ultimo Angelus da Papa, affacciato al balcone del suo studio in piazza San Pietro, attesi almeno 100.000 pellegrini. Domani il motu proprio, un documento per precisare alcuni aspetti riguardanti il conclave prima dell'inizio della sede vacante, poi mercoledì 27 alle 10.30 l'udienza generale, il giorno prima di lasciare soglio pontificio terrà un'udienza generale in piazza San Pietro, al suo ultimo incontro pubblico da pontefice parteciperanno anche qui attese circa 200.000 persone, poi giovedì 28 il ritiro a Castel Gandolfo in elicottero, dove resterà per 2 mesi, poi tornerà in Vaticano, dove andrà ad abitare in un convento. Giovedì 28 alle 20, dopo l'abdicazione, Benedetto XVI rinuncerà alle scarpe rosse, simbolo del martirio, del sangue e della passione, e il camerlengo Tarcisio Bertone distruggerà l'anello con il sigillo papale. Domenica 10 marzo è la data più probabile per l'inizio del conclave che dovrà eleggere il nuovo Papa. Questi sono i prossimi passaggi da tenere presenti per la lettura dei quotidiani di oggi, dove molto si discute su quello che appunto accadrà e quello che significa e quello che potrà dire il Papa e quello che potrà essere il successore del Papa. Queste appunto le tappe per la vicenda. Se invece ci spostiamo sull'altro ovviamente grandissimo tema di giornata, e quindi quello delle elezioni, si discute assai di maltempo. Per esempio Repubblica dedica un'intera pagina a questo tema. Centro Nord, l'allarme neve sul voto, la cancelliera allertata la protezione civile, permetteremo a tutti di arrivare ai seggi, e se le precipitazioni nevose abbondanti anche in pianura, scrive Giovanna Casaddio, fossero determinanti per decidere chi andrà a Palazzo Chigi, nelle scarne note dei bollettini meteo potrebbe nascondersi l'insidia maggiore delle elezioni 2013. È la prima volta che gli italiani vanno a votare d'inverno. Leader ed elettori sono costretti a vedersela con la natura e il maltempo di stagione. Un occhio quindi ai sondaggi, ma l'altro al meteo, che da oggi e domani nevicate nel centro nord e piogge al sud. Questo appunto su Repubblica. E dalla Stampa riusciamo a farvi sapere che l'altro allarme, oltre al maltempo, è quello per i mezzi pubblici, ma non è dovuto al, appunto, al maltempo, la difficoltà a trovare mezzi pubblici, quanto al fatto che autisti ai seggi, tram e metro sono a rischio. Lo trovate un po' ovunque, lo leggiamo dalla Stampa che ne fa una bella sintesi. Disagi per chi sceglierà di spostarsi con i mezzi pubblici nei giorni delle elezioni per effetto della scelta di numerosi autisti del trasporto pubblico locale di avvalersi di una legge che consente loro di impegnarsi nei seggi come scrutatori o rappresentanti di lista senza perdere la retribuzione lavorativa. Napoli e Torino sembrano le città destinate a subire i maggiori disagi, ma ci sono corse ridotte anche a Palermo, a Venezia i vaporetti potranno funzionare regolarmente solo grazie all'uso degli straordinari e dei lavoratori stagionali. Ci fermiamo per un attimo e poi proseguiamo. Le 7 e quasi 35 minuti, ancora una buona giornata da Laura Bettini. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani di oggi. Abbiamo detto delle difficoltà per andare a votare, che sono quelle oggettive, del fatto che ci sarà la neve, che il maltempo imperversa un po' ovunque. Ci sono poi quelle della difficoltà magari in alcune città, soprattutto pare Torino, Napoli, ma anche Roma o Palermo, di trovare mezzi pubblici, perché molti autisti si avvarranno della possibilità che è loro concessa di andare a fare gli scrutatori, rappresentanti di lista, senza perdere alcunché del loro stipendio. E poi comunque sulle elezioni e sulle pagine dei quotidiani si pesa molto l'incubo, la forbice di coloro che non andranno a votare, la forbice che è sempre più ampia o comunque difficile da quantificare. Se ne parla un po' ovunque, ma in particolare lo vedevamo anche nella lettura dei titoli. Il Fatto Quotidiano decide di aprire addirittura su questo tema: decidono gli indecisi. E leggiamo Caterina Perniconi nell'Interno: la forbice degli incerti è stimata tra il 7 e il 12% degli aventi diritto, una media di 5 milioni di persone. Alcuni di loro non andranno a votare, altri decideranno solo di fronte alla scheda, dove tracciare un segno con la matita. Pioggia e neve non aiuteranno a prendere una decisione in favore della partecipazione, ma nessuno studioso stima una crescita molto alta dell'astensione. Verrà confermato qualche punto in più del classico 20%, spiega la presidente dell'Istituto Cattaneo di Bologna, Elisabetta Gualmini, mentre gli indecisi possiamo stimarli tra il 10 e il 12%. Il sondaggista Nando Pagnoncelli è più ottimista rispetto alla volontà degli italiani di andare al voto, calcolando la cifra tra il 7 e l'8%, ovvero come successe alle elezioni politiche del 2008, secondo uno studio realizzato da Renato Mannheimer, che dimostra come circa il 35% degli elettori abbia deciso nell'ultimo mese di campagna elettorale cosa votare, ma solo il 7,8% l'abbia fatto il giorno del voto. E così poi dopo ci si interroga, si danno delle risposte alla questione degli indecisi e di coloro che proprio non andranno a votare. Se ne parla anche sul Manifesto: non protestano più, si sono semplicemente stancati della politica e di chi la rappresenta, al punto che non ci pensano proprio ad andare a votare, e chissà perché qualcuno ancora si ostina a chiamarli indecisi, visto che almeno una cosa, se i politologi che li studiano hanno ragione, loro l'hanno decisa decisa da tempo, quella di astenersi di passare le giornate di oggi e domani passeggiando con la famiglia, lavorando, discutendo con gli amici, magari in un cinema, viste le previsioni del tempo. Comunque ben lontani da un seggio elettorale, tutti gli istituti demoscopici concordano nel valutarli intorno al 29-30% degli elettori, anche se è possibile che la percentuale si riduca di un 4-5% che all'ultimo minuto cambieranno idea. Le cifre non coincidono con quelle del Fatto Quotidiano. Una percentuale più elevata rispetto alle elezioni del 2008, quando gli astensionisti furono il 20% degli elettori. Una percentuale non devastante che ci dice che gli italiani ancora partecipano alla vita politica, spiega il professor Luca Comodo, direttore del Dipartimento Politiche Sociali di Ipsos, l'istituto diretto da Nando Pagnoncelli. Scrive questo articolo sul Manifesto Carlo Lania. Nella stessa pagina l'analisi è sulla città di Taranto in particolare. I politici temono l'Ilva, niente comizi a Taranto. È molto probabile che i tarantini, Gianmario Leone ne scrive, è molto probabile che i tarantini che si recheranno ai seggi per votare saranno pochi, se non pochissimi. Anzi, a guardare i dati delle amministrative del 2012, c'è il rischio concreto di registrare un record storico dell'astensionismo. Lo scorso maggio, al primo turno, infatti, votò poco più del 60%, per l'esattezza il 62,44%. Al ballottaggio, vinto dal rieletto Ipazio Stefano, appoggiato da tutto il centro-sinistra, votò invece soltanto il 43%. Su 174.000 aventi diritto se ne presentarono 74.997. In 100.000 preferirono andare al mare. Un distacco dalla politica cresciuto negli anni, a partire dallo scandalo del dissesto finanziario che nel 2006 fece cadere la giunta di centrodestra guidata da Rossana Di Bello e che segnò il record europeo per il crack finanziario di un comune. Ma a pesare nelle urne sarà inevitabilmente ora la vicenda Ilva. E così Gianmario Leone sul Manifesto. Sicuramente sarà interessante vedere cosa accadrà a Taranto, ma anche in molte aree di crisi del nostro paese. Andando all'estero, gli italiani all'estero hanno già votato, col solito pasticcio, almeno così ci dice il Giorno. Ne scrive Olivia Posani: voto all'estero, il solito pasticcio, già in fumo 25.000 schede. Sono 3 milioni e mezzo e possono eleggere 12 deputati e 6 senatori. Si tratta degli italiani nel mondo. I plichi contenenti le schede elettorali delle 4 ripartizioni estere sono dovuti arrivare a Roma entro il 21 febbraio. In attesa che si sappia in quanti hanno realmente votato, dopo 48 ore il governo non aveva ancora comunicato i dati, abbondano le polemiche. Iniziate d'altra parte sin dalla prima applicazione della legge Tremaglia. Da 7 anni si parla di brogli, irregolarità, compravendite di voti. Eppure gli italiani all'estero anche questa volta sono tornati al voto con le stesse regole scriteriate contro cui si scatenano un po' tutti i partiti. Non c'è nulla di nuovo, aggiungiamo in questo. Quest'anno sono state denunciate anche le disorganizzazioni ai consolati e ci si sono messi pure gli imprevisti, come quello che riguarda lo sciopero delle poste in Sudafrica, che ha provocato il mancato arrivo di migliaia e migliaia di schede votate. Si parla di addirittura 25.000. In Parlamento giacciono proposte di modifica del meccanismo, ma non succede nulla. La legge che regola il voto dei cittadini italiani all'estero va rivista, ha esortato l'altro giorno il ministro dell'Interno Cancellieri, che certo non pensava solo ai giovani di Erasmus a cui è stato impedito di votare. Nel 2008 i giornali raccontarono di un video in cui si vedevano ragazzini nati e cresciuti in Australia ripresi mentre riempivano in un garage di Sydney centinaia di schede elettorali per mandare senatori e deputati a Roma in cambio di una cassa di birra. Sempre nella sedicesima legislatura, Nicola Di Girolamo entrò in Senato con 25.000 voti dichiarando di essere residente in Belgio. Peccato che poi si scoprì che non viveva all'estero. E chi può dimenticare l'ansia del governo Prodi alle prese con le bizzarrie del senatore italo-argentino Luigi Pallaro? Lui ora non è più in Parlamento, mentre prova a rimanerci il ricchissimo Esteban Juan Caselli, personaggio molto chiacchierato. Ma al di là di tutto, il sistema è sotto accusa perché non garantisce che le schede siano utilizzate correttamente. In molti premono per arrivare a procedure informatizzate, come in Francia. Dei 18 parlamentari attuali eletti all'estero, 8 sono PD, 7 PDL, 1 Razzi, entrò con Di Pietro ma poi si è unita a Scilipoti nel sostegno a Berlusconi, e 2 del Movimento Italiani all'estero. Così il riassunto E la questione posta molto importante da Olivia Posani su Il Giorno, con le 25.000 schede che per lo sciopero dei postini sudafricani là sono rimaste e non sono arrivate in tempo in Italia. Il Sole 24 Ore propone oggi, sempre in tema di elezioni, un'analisi. Da Sole 24 Ore, politica industriale, fisco, semplificazioni e lavoro, l'agenda del nuovo governo. Quindi con molta precisione, punto per punto, vengono analizzate la situazione attuale, lo stato dell'arte, le misure in sospeso e le priorità per il futuro governo, quale che esso sarà. Ci sono poi appunto schede sugli investimenti nel Mezzogiorno, riassetto della macchina pubblica e tutto ciò che riguarda appunto il punto di vista del Sole 24 Ore su queste elezioni. Abbiamo tra pochissimo la viabilità, ma restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore per un articolo che nulla a che vedere con le elezioni, ma che è molto interessante e molto significativo, perché di carceri si è parlato troppo poco sicuramente in questa campagna elettorale, ma c'è un carcere modello che è quello di Bollate, dove lavora Sisco per la rieducazione dei detenuti. Ne leggiamo giusto qualche passaggio appunto prima della viabilità. Sisco espande il modello Bollate, partito 10 anni fa il progetto di CSR per la formazione informatica, vanta una recidiva pari a zero, ci dice Alessia Maccaffè Ferri. Quando arrivano mi dicono: io non conosco i computer, li ho sempre solo rubati, racconta un po' divertito Lorenzo Lento, che insegna nel carcere di Bollate. Lui dal 2001 è diventato il punto di riferimento per centinaia di detenuti. Libero professionista, lavora come volontario quasi a tempo pieno alla Cisco Networking Academy nel carcere milanese. La struttura propone corsi di informatica di diverso tipo, creando così occasioni di crescita personale e opportunità di lavoro. C'è addirittura un ex allievo, continua Lento, che ora configura gli apparati di videosorveglianza per tabacchi e ricevitorie. Ma non si deve sapere in giro, perché per un ex detenuto perdere il lavoro è molto facile se si viene a conoscenza dei suoi trascorsi. Bollate, più avanti scrive Maccaferri, è stato il primo carcere a livello mondiale a ospitare Cisco Networking Academy, un programma di responsabilità sociale che in tutto il mondo contribuisce alla formazione informatica nelle scuole, nei centri professionali e nelle carceri. A Bollate in 10 anni 400 detenuti hanno frequentato i corsi e circa un centinaio hanno ottenuto la Cisco Certified Network Associate. L'80% di loro ha trovato un impiego dentro o fuori dal carcere. E mentre il dato medio di recidiva nelle carceri italiane è del 70%, a Bollate scende al 16-17%. E si azzera tra i nostri allievi, spiega Luca Lepore, responsabile del programma Networking Academy per Cisco Italia. Nessuno è tornato in carcere per avere commesso nuovi reati. Quindi la rieducazione è possibile, fornire gli strumenti per lavorare è possibile, la viabilità e altre poi notizie dai quotidiani di oggi. 7:46 minuti, notizie dalle città, cambiamo un po' argomento dopo quello lungo e mai finito delle elezioni. Notizie dalle città, troviamo la prima dalla stampa. Andiamo, nonostante la stampa di Torino ci parla di quello che accade a Venezia. Calatrava senza pace, si blocca anche Lovovia. C'è un altro guaio tecnico, l'inaugurazione è rinviata. Anna Sandri da Venezia: non gliene va bene una. Se c'è un danno erariale, lo ha provocato lui. Se c'è una gamba rotta, ce l'ha sulla coscienza. Se c'è un costo di mantenimento fuori budget in tempi di spending review, è il suo. E adesso che poteva fare la sua bella figura e prendersi uno scampolo di rivincita, lo sciagurato non si è smentito. A una manciata di ore dall'inaugurazione del suo sistema per disabili, il ponte di Calatrava non ha fatto eccezione e l'ha ovviamente contestata Ovovia, che aveva superato Spavalda non uno ma 15 giorni di prove e un collaudo ministeriale, al momento di andare in scena ha fatto cilecca. Mancato aggancio alla cremagliera, inaugurazione rinviata, a quando non si sa. 10 giorni, un mese, 6 mesi, che cambia? L'aspettavano, o la contestavano, dipende dai punti di vista, da 4 anni, sufficienti a far raddoppiare il suo costo e naturalmente a far aprire un'inchiesta alla Corte dei Conti. Doveva costare 1 milione, è arrivata a 1.800.000. come il ponte, che doveva costarne 7 e alla fine è arrivato a 11. I 4 di differenza, secondo la Corte dei Conti, che ha chiuso la sua inchiesta, sono dovuti a errori di progettazione, di gestione dell'appalto e al mancato calcolo della manutenzione. Si aggiunge così un nuovo capitolo alla storia infinita del quarto ponte sul Canal Grande, quello per il quale l'architetto Santiago Calatrava regalò un progetto a Venezia, quello che fu battezzato Ponte della Costituzione, ma continua a essere chiamato con il nome di chi lo ha disegnato. Quello che è indubbiamente bellissimo e audace, i veneziani non hanno mai voluto né amato. E così, Anna Sandri, il fallimento anche della Ovovia. Invece sul Corriere della Sera troviamo notizia, e ne parla Aldo Cazzullo, del libro di Davide Parenti sui servizi preparati dopo quello sui parlamentari testati, diciamo, sulla droga, servizi poi mai andati in onda. Le Iene, nel liceo milanese, dove si droga un ragazzo su 2. Tamponi prelevati con una scusa. Allora, ci ricorda un po' la vicenda Aldo Cazzullo, che ne parla appunto direttamente con Davide Parenti. Prima andammo in una delle discoteche più famose di Milano. Scoprimmo che più della metà dei maschi aveva preso droga. Il servizio andò in onda, nessuno protestò. Così ci riprovammo con i parlamentari. Su 50, 16 avevano assunto stupefacenti, in un caso l'eroina. Ma quel servizio non l'ha mai visto nessuno. Mi arrivò in casa la Guardia di Finanza alle 4 di mattina. Mi condannarono a 5 mesi e 20 giorni per nocumento alle istituzioni, poi commutati in 15.000 euro di ammenda. Nel frattempo c'era passata la voglia di mandare in onda le altre due inchieste che avevamo preparato. Tra i piloti d'aereo scoprimmo che uno su 4, quando non era in servizio, tra un volo e l'altro, aveva fumato cannabis, e fuori da un liceo scientifico milanese. Qui la percentuale saliva parecchio, più della metà aveva fumato cannabis, sottinteso. Davide Parenti, 56 anni, è l'inventore delle Iene e anche il curatore del libro inchiesta che esce la prossima settimana e si intitola appunto Droga, con la postfazione di Don Gino Rigoldi. Dentro ci sono le storie che abbiamo raccolto nei 16 anni in cui ci siamo occupati dell'argomento e quel che abbiamo capito. Per scriverlo abbiamo incontrato il capo dipartimento politiche antidroga Giovanni Serpelloni, siamo andati a trovare i finanzieri che combattono il narcotraffico a Malpensa, uno pneumologo dell'Istituto dei Tumori, un capo del SERT di Milano, uno psichiatra specialista delle tossicodipendenze, un genetista che lavora con i semi di marijuana che fanno da base anche a molte medicine. Ci siamo letti tutte le cose più recenti uscite nel mondo, manuali di pronto soccorso, opuscoli underground, ricerche sugli animali, libri di storia, articoli di neuroscienze. Siamo andati alle riunioni degli alcolisti anonimi e nei luoghi dove le persone consumano la droga. Conclusione: la droga è davvero molto più diffusa di quel che si pensi e soprattutto stanno cambiando i consumi. La cocaina non è più la droga dei ricchi, ma imperversa dove c'è il disagio, il vuoto, la povertà di prospettive. La si compra al bar, dove si prende l'aperitivo. In ogni discoteca ci sono almeno 5-6 spacciatori che vendono di tutto. I prodotti più pericolosi sono le pastiglie che escono da laboratori improvvisati. Neanche chi le vende sa cosa c'è dentro. I nostri ragazzi muoiono così, e muoiono dentro quelli che dalla droga non sanno ritirarsi. Dice Parenti di non voler fare il moralista, stabilire cosa sia droga e cosa non lo sia è una convenzione culturale. Alcol e caffè sono socialmente accettati, ma hanno comunque effetto sul sistema nervoso. E così via via. Aldo Cazzullo che ritrova appunto Davide Parenti e questa inchiesta di cui effettivamente si erano perse le tracce dopo questi test effettuati di nascosto sui parlamentari. Come promesso in apertura, torniamo sul secolo XIX per la nave Fantasma Paura nell'oceano. Lyubov Orlova era una bionda attrice russa degli anni 30. La prima star del cinema sovietico, non certo così importante da meritare un monumento sulla Piazza Rossa, ma comunque tanto apprezzata che il suo nome fu usato per un asteroide e un anno dopo la sua morte, nel 76, anche per una nave destinata a portare le famiglie dei dirigenti di Mosca e Leningrado alla scoperta dei ghiacci artici e antartici. Rotte severe che la Lyubov Orlova ha seguito per decenni, anche dopo il crollo del regime, sotto le insegne della FESCO, che in Russia era un po' come dire l'Italia di navigazione. Abbandonata e dimenticata da tutti, adesso la Orlova è un relitto alla deriva nell'Oceano Atlantico. Terrorizza ambientalisti e comandanti che temono di vedersela spuntare all'improvviso tra la foschia e le onde, con a bordo un equipaggio di soli topi. La nave sta percorrendo al contrario la rotta del Titanic. Ora è a 2.400 km dall'Irlanda e la guardia costiera di quel paese sta aspettando che finisca in acque territoriali, spinta dalla corrente. Da spettro di un'epoca a fantasma di un oceano. Mica male per una piccola nave che solo 3 settimane fa doveva essere trasformata in un mucchio di rottami. E poi appunto nelle pagine interne Alberto Quarati racconta tutta la vicenda di questa nave che insomma era stata agganciata per essere poi portata a essere smantellata, ma il cavo si spezza, la nave comincia a vagare in mezzo all'oceano, il vecchio relitto sovietico naviga, si fa per dire, in una zona di piattaforme petrolifere, potrebbe andare a sbattere un po' nella piattaforma Ibernia oppure finire dentro il rigassificatore Sirose, quindi è il terrore di tutti coloro che stanno operando nella zona. L'armatore demolitore, che si chiama Reza Shobei, quello che si è perso la nave nell'oceano, è totalmente nel panico. Il costo di recupero della nave ormai è più alto rispetto agli spiccioli estorti dal governo canadese e insomma questa nave continua la sua deriva fino ad arrivare adesso verso le coste, come dicevamo, dell'Irlanda, ma è poi sempre che il vento e le correnti non decidano diversamente, quindi la trasportino altrove. La nave fantasma, terrore degli oceani, l'ultima notizia che possiamo darvi in questa rassegna stampa. Sono le 7:54, la linea va a GR24.